giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Urne aperte in regione per rinnovare quattro amministrazioni comunali, Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier di Sonzo. A breve i primi dati sull'affluenza alle 12. Caso Resinovic, l'avvocato della nipote di Liliana, Federica Obizzi, l'iscrizione di Visintin frutto di una precisa ipotesi investigativa. Non credo ci siano altri indagati. Basket, Trieste in campo alle 18:15 sul parquet della Rayer Venezia. In Serie A2 alle 18 Udine si gioca con Rimini il possibile passaggio in Serie A1. Cividale sconfitta in casa da Milano. Le 12:15 ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Daniele Lettige. Si conosceranno a breve i dati sull'affluenza alle urne che riguardano la tornata elettorale per le amministrative in corso in regione. Le operazioni di voto si stanno svolgendo regolarmente. Le urne sono aperte dalle 7 di questa mattina in quattro comuni, come avete sentito, Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier di Sonzo, in 93 sezioni. Il servizio con alcune indicazioni per il voto. 68.907 gli elettori chiamati alle urne a Pordenone, Monfalcone, San Pier di Sonzo e Nimis. Per votare devono presentarsi al seggio con un documento d'identità valido e la tessera elettorale, che si potrà ottenere anche in caso di smarrimento negli uffici elettorali dei comuni. 8.352 gli elettori residenti all'estero. Si può votare un candidato sindaco, una lista, e in questo caso il voto si estende anche al candidato sindaco collegato, e poi un candidato sindaco e una lista collegata. A Pordenone e Monfalcone, comuni con più di 15.000 abitanti, si può esprimere anche il voto disgiunto, tracciando un segno sul nome del candidato sindaco e un altro su una lista non collegata. A Nimis e San Pier di Sonzo, invece, se viene espresso il voto disgiunto, questo è valido solo per il candidato sindaco. Si possono esprimere fino a due preferenze per i candidati a consigliere comunale della lista prescelta e, se sono due, devono essere di genere diverso, altrimenti resta valida solo la prima preferenza espressa. A Pordenone e Monfalcone è eletto sindaco il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi. In caso contrario si andrà al ballottaggio tra i due più votati, fissato per domenica 27 e lunedì 28 aprile. A Nimis e San Pier di Sonzo è eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Il caso Resinovic, Sebastiano Visintin, almeno per ora, si è chiuso nel silenzio, come il suo avvocato Paolo Bevilacqua. Non risultano al momento altri indagati. Per Federica Obizzi, avvocato della nipote di Liliana Resinovic, l'iscrizione di Visintin è frutto di una precisa ipotesi investigativa. Dopo le prime dichiarazioni nell'immediatezza della notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati, Sebastiano Visintin ora preferisce non pronunciarsi oltre su quello che la Procura di Trieste ha codificato con ipotesi di reato di omicidio volontario. Un silenzio che fa il paio con quello del suo legale, Paolo Bevilacqua. Del resto, le indagini su Visintin indicano una traccia decisa del nuovo percorso investigativo intrapreso dalla Procura, come commenta Federica Obizzi, legale della nipote di Liliana, Viviana Resinovic, e quindi escluderebbero il coinvolgimento di persone lontane da Visintin, come ad esempio l'amico di Liliana, Claudio Sterpin. D'altra parte, gli approfondimenti delle indagini, secondo la perizia di Cristina Cattaneo, indicavano come necessaria una serie di nuove verifiche, tra cui delle analisi da eseguire sui peli ritrovati sul corpo di Liliana. Analisi che potrebbero rivelarsi cruciali nel caso in cui indicassero il profilo genetico di una terza persona, come spiega Stefano Delrico, consulente tecnico del fratello di Liliana, Sergio. Con lui, ad attendere le analisi, c'è anche Luciano Garofano, già comandante dei RIS di Parma e consulente tecnico di Visintin. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Associazione Diritti del Malato ha organizzato alle 17 di oggi una manifestazione nel piazzale davanti all'ospedale di Latisana per sollecitare politiche atte a contrastare il progressivo smantellamento dell'ospedale e la compromissione, così si legge nella nota del comitato, del suo ruolo di presidio di urgenza per la Bassa Friulana. Le attuali politiche di esternalizzazione, afferma ancora il comitato, invece di fornire un reale supporto all'ospedale, stanno aggravando la già critica situazione del personale e alimentando la fuga dei professionisti. L'amministrazione regionale intende acquisire la proprietà dei beni cosiddetti asciutti del sistema derivatorio costituito dagli impianti idroelettrici della Val Meduna. Si tratta dell'impianto di Meduno, la cui concessione è scaduta a fine 2010, degli impianti di Valina e Chievolis, nel comune di Tremonti di Sopra, la cui concessione è scaduta a metà 2023, degli impianti di Colle e Istrago, situati nel comune di Spilimbergo, la cui concessione è scaduta nel giugno dello scorso anno. Si tratta del primo passo concreto verso la procedura di riassegnazione delle relative concessioni in regime di concorrenza, in ossequio alla direttiva Bolkestein e al decreto Bersani. Probabilmente, a causa delle posizioni molto distanti tra la Regione e Edison, il concessionario uscente, sul prezzo di acquisto, sarà necessario affidare la controversia ad un collegio arbitrale. Approvati dalla Giunta regionale anche i bandi per l'accesso a interventi di forestazione e imboschimento di terreni agricoli e non agricoli. L'avviso finanzia con 500.000 euro per ogni bando impianti e reimpianti di pioppo per incrementare la superficie dedicata all'arboricoltura da legno a ciclo breve, aumentare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, fornire prodotti legnosi e non legnosi e diversificare il reddito aziendale agricolo. Potranno beneficiare del contributo, che sarà concesso fino all'80% della spesa ammissibile, soggetti pubblici o privati in forma singola o associata, titolari della conduzione delle superfici non agricole oggetto dell'investimento. Siamo al tempo, cielo coperto su tutta la regione. Queste le temperature delle 11. A Trieste e Gorizia 13 gradi, a Udine 12 e 5 decimi, a Pordenone 12, a Tarvisio 11 e 5 decimi, a Tolmezzo 10, a Forni di Sopra 8 e 5 decimi, sul Piancavallo 6 gradi, sul Monte Lussari 4, sul Monte Zoncolan 2 e 5 decimi, sulla costa a Lignano e Grado 13 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA: oggi avremo cielo da nuvoloso a coperto, piogge sparse in genere deboli, più probabili a est in serata, specie sul Carso e a Trieste, quota neve superiore ai 2000 metri. Andiamo a Pordenone, dove è in corso un appuntamento di grande richiamo, la fiera dedicata a tatuaggi e motori. Appassionati di tatuaggi e di motori si sono riuniti nel fine settimana in fiera a Pordenone per Naonian Tattoo Motor Expo, terza edizione, con più di 250 artiste e artisti che hanno esibito le proprie abilità realizzando tatuaggi dal vivo. L'organizzatore dell'evento, Carlo Bonci. Noi da 17 anni organizziamo l'Internazionale a Trieste, che sarà a metà novembre. Abbiamo portato questo format anche a Pordenone, unendolo con l'area motori. Adesso abbiamo un po' di tutto, dalla persona anziana al più giovane. È una forma d'arte anche questa ed è stata riconosciuta in questa maniera qua. Che cosa state realizzando? Allora, questo è un tatuaggio fatto in combo. Vuol dire che c'è un progetto iniziale e viene realizzato da due tatuatori simultaneamente. E per rendere il tutto abbastanza omogeneo, siccome abbiamo due stili un po' differenti, sempre verso l'horror, però sono un po' differenti, si inizia uno da una parte e uno dall'altra e dopo, che ne so, un 30 minuti ci si alterna in maniera tale da fondere entrambi gli stili. L'età di richiesta del tatuaggio è sempre più bassa, è vero? In realtà no, ieri ho avuto due mamme che si sono fatte accompagnare dalle figlie per fare un tatuaggio, quindi a ruoli invertiti rispetto a quello che si pensa. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport basket. In Serie A1 Trieste scenderà in campo alle 18:15 sul parquet della Reyer Venezia in un match importantissimo in ottica playoff. Per la Serie A2 oggi alle 18 Udine si gioca in casa con il Rimini il possibile passaggio in Serie A1. Ieri intanto Cividale ha perso in casa contro l'Urania Milano. Stavolta è quasi un arachiri, non il primo della stagione. Cividale, dopo aver a lungo condotto, cade in casa contro l'Urania Milano 95-96, buttando via sicuramente un primo turno di playoff con il fattore campo e forse peraltro i playoff stessi. Contro una squadra in difficoltà e senza un americano la partita sembrava in discesa, 7 su 9 da 3 nei primi 11 minuti e Ducali che prendono il largo trascinati dal solito redivo immarcabile. Supponenti però i gialloblu smettono di difendere e subiscono 34 punti nel secondo periodo, chiudendo sotto la prima metà. Nella ripresa Berti comanda la difesa, Redivo ricomincia a martellare con canestri da distanze impossibili e l'Urania deve aggrapparsi ai canestri di Alessandro Gentile. Cividale raggiunge il più 10 ancora con Redivo, sembra fatta, ma la luce si spegne di nuovo, la pigrissima difesa non lascia passare e in 3 minuti Leggio riporta Milano sopra. In qualche modo la squadra di Pillastrini arriva avanti nella tradizionale volatona, ma crolla come un castello di carte quando il piccolo Maspero frega tutti sull'ultimo rimbalzo a fil di sirena, portando tutto al supplementare, dove nonostante i problemi di falli Milano ha più voglia. Pillastrini toglie un redivolo a 31 punti ma in versione smargiassa, ancora Maspero segna un minuto dalla fine dell'overtime il canestro che spariglia il punteggio, poi Lamb sbaglia il tiro della vittoria costruito malissimo e sul rimbalzo offensivo Rota non fa il miracolo. Cividale, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E per il calcio, Triestina oggi in campo al Rocco alle 15 per il derby salvezza contro il Padova. Il giornale radio finisce qui, grazie per averci seguito e ancora una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.